Benvenuti a un nuovo episodio di Micio Segone Ask Dei Maker, episodio 6. Questa sera, come vostro cicerone, ci sarò solo io, purtroppo variopunk, perché i miei colleghi sono andati tutti a giocare a Dungeons & Dragons, senza di me, ovviamente. Quindi, per parlare del game maker che esporremo oggi nella nostra variopinta bacheca, ci sono solo io, insomma, tanto per. E il game maker di cui parliamo oggi è Stefano Caporale, che è conosciuto più che altro per il suo ultimo gioco, ovvero l'avventura grafica L'affitto The Rent. Ciao, Esatto. ciao Stefano. Ciao, ciao. Eccoci. E quindi possiamo iniziamo subito a esporre il nostro ospite di oggi. Stefano, tu hai un blog, vero? Che parli, di Sì, è cui un parli. blog Sì. in cui, oltre a pubblicizzare spudoratamente i miei videogiochi, Che è che il minimo. sono roba di tre videogiochi, quindi. È il minimo, eh. Sì, e cercavo, anche perché ultimamente ho lasciato, di aiutare chi volesse iniziare a programmare videogiochi, insomma, di cercare di dare una mano per iniziare, per partire. Solo che al momento sono un po' fermo, mi dispiace, con tutti i miei follower, ma cercherò di riprendere al più presto. Beh, vedo che comunque è molto seguito. Ci sono delle notizie che hanno più di 500. Una che rispe particolare che ha più di 500 commenti. Eh beh, sì, in effetti mi fa piacere, e per questo mi dispiace ancora di più averlo lasciato. Purtroppo è il brutto vizio di lasciare incompiuti i miei progetti. Come è iniziato tutto questo? Tu sei uno studente di ingegneria informatica, no? Sì, sono un studente di ingegneria informatica, però in realtà non è per questo che ho iniziato a fare giochi, è semplicemente perché niente, come tante persone, mi sono appassionato ai videogiochi da piccolo, ho sempre voluto farne uno e molto in ritardo ci sono riuscito. E E niente, quindi. no, niente, dicevo che, insomma, come molti di voi, sono cresciuto con un certo tipo di videogiochi dagli anni 80 in poi, quindi, insomma, la passione penso che sia sempre quella per un po' tutti i game maker. Sì, più o meno sono tutti dei nostri coetanei della nostra Sì. generazione, quelli che ci provano. Ma i primi tentativi di fare ciò quando sono iniziati? Durante l'adolescenza o è una cosa più recente? Ah, no, i primi tentativi più o meno, vediamo un po', vediamo. Più o meno quando avevo 15 anni. Sì, perché inizia a scoprire questo programmino che sicuramente molti conoscono, ora non è più usato, che si chiama The Games Factory. Ah, sì. Ecco, ho iniziato con quello, insomma, ho scoperto che si potevano fare videogiochi in modo abbastanza semplice e ho iniziato a fare il mondo. Faccio vedere i videogiochi a tutti i compagni delle superiori, di cui il 10% mi prestano attenzione e niente, iniziavo a fare i videogiochi con questo programmino. Però il The Games Factory non era questo grande programmone professionale, forse perché No. non lo sapevo usare bene. Quindi ci rimanevo un po' deluso perché mi uscivano un po' delle cacchette di giochi. Per Quindi caso poi dimmi. eri uno di quelli che The Games Factory aveva preso con giochi per il mio computer, The Ma sai che può essere? Non sono sicuro, ma può darsi. Game Machine. Perché la nostra generazione è stata colpita da quella volta che con The Game Machine uscirono RPG Maker 2000 e The Game Factory e dopo proprio si riempirono i forum, no? E io credo che sia proprio per questo, anche perché all'epoca non avevo internet, quindi penso sia l'unico modo. Guarda, o con quello, o con The Game Machine, oppure con le Twilight, non so se te li ricordi. No. Erano dei CD che giravano sotto banco pieni di programmi e giochi ripati. No, Era una cosa bellissima. questi non li conosco. Ma a quei tempi non ero molto informatico, non capivo un cavolo di computer. Ecco. Ero proprio a livello, metti il CD, parte il setup e va il gioco, basta. Stavo per installare i giochi e basta, credo. Benissimo. Io mi installerei da mio zio, quindi figurati. A 15 anni non credo. No, 15 anni no, un po' prima. Ecco, io a 15 anni ero ancora lì invece. Niente, questo, ho iniziato con questo programmino, poi ho lasciato per un po' di tempo per altri interessi e ho ripreso negli ultimi 5 anni circa. Aspetta, avevo in mente cosa volevo chiederti, ma e di quel periodo lì di sperimentazione c'è qualche residuo o hai perso tutto? Ti spiego. Dicevo prima che i miei progetti non vengono portati mai a termine, quindi in realtà i miei videogiochi sono decine, ma sono tutte delle prove. Io iniziavo a fare dei videogiochi e li lasciavo così, facevo queste prove, mi prendeva un'altra idea e ne iniziavo un'altra. Quindi sia con The Games Factory, anche con i nuovi motori di giochi, di gioco, ne ho fatti davvero tanti, solo che non li ho mai pubblicati, anche perché non sono mai stati completati. Sì, quindi la mia sperimentazione è continua, dai miei 15 anni in poi è tutto un esperimento. Però ce li hai ancora, hai un hard disk pieno di progetti, insomma. No, no, no, perché a causa delle varie formattazioni, perché Maledette. sì, beh, è andato tutto perso, a parte qualcosina, tipo, praticamente ho conservato solo gli ultimi progetti non compiuti, ma insomma qualcosa c'è. Sono pochissimi però per adesso, cioè confronto a tutti quelli che ho fatto. Fino ad oggi, a parte l'ultima intervista, tutti i game maker hanno perso qualcosa in una formattazione. È una lezione importante È una questa, ecco. maledizione. No, ma qualcosa, siccome dicevo, erano solo esperimenti, diciamo che li ho persi anche volutamente un po', a parte qualcuno di cui mi dispiace, però. Cioè, insomma, non è che volevo tenere la pallina che rimbalzava sullo schermo salvata per anni, Vabbè, capisci? però è un ricordo, dai. Beh, forse. Quindi il fatto che tu dopo come indirizzo hai scelto ingegneria informatica non è influenzato da questa cosa che vorresti fare videogiochi? No, anzi, devo dire che facendo ingegneria informatica mi è entrato il pallino in testa di voler creare videogiochi proprio come professione, semmai ci riuscirò. Sì, perché prima era solo un hobby, quindi non ci pensavo più di tanto, cioè li facevo a casa, li facevo vedere ai miei amici e basta, la storia, non avevo la pretesa di voler fare il game maker. Adesso un po' questa pretesa ce l'ho. Spero di riuscirci. Aspetta che ho Insomma, perso. anche in modo un po' meno amatoriale, ecco. Sì. Beh, dai, adesso sta diventando sempre più fattibile la cosa. Sì, infatti, sto vedendo che, per esempio, tu hai conosciuto il mio ultimo gioco di cui stai parlando, che è L'Affitto. Sì. E non l'avresti mai conosciuto senza internet. Infatti, io i videogiochi che facevo a 15 anni non sarebbero mai stati pubblicabili. Sì. Adesso, con internet e con tutti questi sviluppatori indipendenti che si fanno vedere, si fanno conoscere proprio attraverso la rete, è diventato molto più facile e anche molto più bello perché ci sono veramente delle perle in giro che non sono commerciali, non vengono commercializzate dalle grandi case, ma che insomma vale davvero la pena. Sì. L'unico problema è che internet dà la possibilità a tutti di parlare, quindi anche agli stronzi, ma questo è un altro discorso. Ah, vabbè, le critiche ci sono sempre state. Insomma, se sono criticabili quelle della EA Games, figurati gli sviluppatori indipendenti. Vabbè, la EA Games lasciamo perdere. Sì, Se ha vabbè, quella delle sto per critiche, dire. dei motivi ci sono, dai. Sì, sicuramente. Però, Una, insomma. un conto è quando paghi 50 euro per avere una cosa, un conto è quando ti danno una cosa gratis e tu così a priori, vabbè. Sì, in Aspetta che... effetti, questo è un altro modo di vederla un po' più. Sì. Hai ragione. Ci sarà un motivo per cui non compro più videogiochi. E non vuol dire che li scarico, proprio non gioco più, sì. Ultimamente gioco solo a freeware. No, invece io devo dire che da quando cerco di sviluppare qualche videogioco per conto mio, Mi dispiace scaricare videogiochi e quindi cerco sempre di comprarli quando posso. Partecipo ai bundle spesso, ovviamente alle super offerte natalizie di Steam e roba varia, che sono la croce di tutti i portafogli dei videogiocatori. Sì. Ah, invece a me il Insta Delivery ha fatto smettere di comprare videogiochi, quindi pensate. Purtroppo io sono rimasto all'epoca, rimasto poi, io non ero un bambino, ma vabbè. Preferirei essere rimasto all'epoca in cui le avventure grafiche uscivano con lo scatolone mega gigante. Bellissimo, c'è ancora qualcuno. E invece siamo arrivati a questo. Vabbè. Vabbè, possiamo andare avanti, dai. Gli altri possono andare avanti, io rimango indietro. Ma adesso. E restiamo con i flop da 3,5 pollici. Il mio computer neanche ce l'ha il buco per i floppy, quindi. Neanche lettore, buco per i floppy si chiama. E torniamo a parlare di te, va, va. Sì, va bene. Stiamo andando off topic. Quindi eravamo al fatto che stai studiando ingegneria informatica e che vorresti diventare un professionista. E Flash, visto che i tuoi primi due giochi completi sono in Flash, lo conoscevi prima dell'università o l'hai perfezionato lì? No, Flash lo conoscevo prima dell'università e lo utilizzavo per, siccome all'epoca mi interessava l'animazione, lo utilizzavo per fare delle piccole animazioni, anche perché era molto facile, lo è tuttora, in vettoriale, quindi anche carino da vedere, no? E non ho mai pensato di utilizzare Flash per fare videogiochi. Poi su internet è iniziato ad andare di moda questi giochi in Flash, sono dei portali interi di giochi in Flash, Sì. e ho scoperto che non ci vuole tanto a fare questi giochini, e che anzi ci si può fare qualche spicciolo sugli advertising senza la necessità di vendere videogioco. E ho iniziato a programmare videogiochi in Flash proprio per provare a vedere come funzionava il mercato, non tanto per fare il videogioco. Quindi il mio primo videogioco pubblicato in Flash è stato per vedere se effettivamente funzionava questa cosa di pubblicare un videogioco indipendente ed entrare nel mercato. Tutto qui. Poi invece mi sono appassionato, ho fatto altri videogiochi in Flash, alcuni pubblicati, altri no. Ah, ok. Quindi hai reso pubblici solo Gball e King Pong? Sì, in realtà li ho resi pubblici più che altro perché mi sono state fatte delle offerte sì, su un sito che si chiama Flash Game License, che insomma permette ai sviluppatori di mettere in mossa in vetrina il proprio prodotto e agli sponsor di comprarli. Mi sono state fatte delle offerte e quindi le ho pubblicate, non dico per forza, ma insomma, più che altro per questo, altrimenti non credo l'avrei fatto. Quindi le pubblicità che partono prima del gioco, quella è perché hai gli sponsor. No, c'è la possibilità, ora non mi dilungo troppo, però c'è la possibilità di vendere il gioco, ma non dare tutti i diritti al compratore. Cioè, tu permetti, io vendo una versione del gioco con lo sponsor di chi me lo compra, però io poi ho sempre il diritto di pubblicarlo con delle pubblicità per fatti miei. Quindi Ah, ok. sono pubblicati in entrambi i modi. Sì. E a livello cronologico, a quando risalgono quei giochi? A proprio l'anno? 2 anni fa circa, sì, 2 anni fa. Tutte e due? A distanza di 6 mesi l'uno, quindi diciamo 2 anni fa e un anno e mezzo fa. Ah, quindi c'è un bel Credo, buco non vorrei tra sbagliarmi. King Pong e l'affitto, c'è un bel buco. Questo è una lunga storia, in realtà. Ah, Dovrei ok. raccontarti la storia dell'affitto. Ma la fi ecco, e quindi sorge un'altra domanda. Quanto è durata la produzione di L'Affitto? E questa è la domanda da 1 milione di dollari. Ah, ok, 2 anni. La produzione dell'affitto è durata 7 anni. Eh? 7 anni, Sì, però ora ti spiego. hai usato AGS 3.2, non il 2.7. Esatto. Vabbè. In realtà è iniziato con AGS 2.7 ed è proprio Terribile. per questo che dura 7 anni. Dai che ti riempio un bel po' di minuti di intervista con questa storia, dai. Allora, funziona così con l'affitto. L'affitto l'ho iniziato a ideare conoscendo AGS, che già conoscevo prima di iniziare l'università, e ho iniziato a ideare l'affitto quando mi sono iscritto a primo anno di università, quindi le prime esperienze in una casa in affitto con coinquilini, no? Sì. Ho iniziato a sviluppare questo videogioco. All'epoca non sapevo neanche programmare tanto bene, quindi il codice era molto sporco, non riuscivo a gestirlo bene, però insomma ci stavo riuscendo e usavo AGS 2.7. Sì. Mentre stavo sviluppando il gioco, roba di dopo 2 mesi, perché non ci perdevo neanche tanto tempo, uscì AGS 3 e feci la stupidata di aprire il mio videogioco di AGS E ti 2.7 chiede, con vuoi AGS 3 convertire? e mi cambia tutto. Esatto, e dopo dice che è tutto obsoleto. Esatto, era tutto obsoleto. Io non ero pratico di programmazione, non ero pratico neanche di AGS, e lasciai perdere. È una storia che Ecco, conosco purtroppo. lasciai perdere. Solo che quel videogioco, a parte alcune animazioni, era quasi finito. Sì. Mi dispiace un casino. Quindi ci ho sempre ripensato a quel videogioco, ho sempre cercato di finirlo. Ma non ci riuscivo proprio, non riuscivo a fare un passaggio pulito dalla versione 2.7 alla versione 3. E quindi, cioè, mettevo mani ogni tanto, qualche mese, non ci riuscivo, lasciavo. Fino a qualche mese fa, non ricordo quando l'ho finito, quando ci ho L'hai rimesso mano. pubblicato ad agosto. Credo 6 mesi fa ho deciso di finirlo perché insomma, mi dispiaceva troppo lasciarlo così. Era quasi finito. Poteva essere l'unico videogioco che io avessi mai potuto finire e non volevo lasciarlo così. Quindi ho praticamente riprogrammato e rifatto tutta la grafica, tutta la programmazione, tutto il codice del gioco in AGS 3. Per questo è durato 7 anni di tribolazioni questo gioco. In realtà da quando ci ho rimesso mano l'ho rifatto da capo, proprio da zero. E poi ci ho messo 2 o 3 mesi di sviluppo. Ah, quindi anche la grafica è diversa, era diverso il progetto No, la iniziale. grafica era, le linee erano le stesse, però avevo usato dei colori che non mi piacevano, quindi ho cercato di rifarlo, ho cambiato qualcosina, ho ridisegnato un po' gli sfondi, le ambientazioni. I personaggi di base sono gli stessi, cambiano solo i colori. Ovviamente la versione vecchia non è pubblicata, quindi non Ah, no. posso, non c'è da fare il confronto, perché Anche ormai perché questa è quella. se il progetto è quello che è diventato completamente obsoleto con la conversione, non è neanche giocabile. Sì, infatti non è giocabile. Appena lo apri ti dà l'errore, quindi. Una cosa, e l'affitto, c'è qualche influenza di qualche avventura grafica famosa, tipo, boh, io Eh direi, sì. ci ho visto un po' Maniac Mansion, per dire. Esatto. Soprattutto, vabbè. Hai un buon occhio. In Ho effetti. temuto per il criceto quando ho visto che si. No, in realtà l'influenza più grande di Maniac Mansion è per l'architettura dei fondali, cioè in modalità orizzontale. Sì. Di solito, dopo Maniac Mansion, i fondali erano tutti un po' presi da punti di vista differenti, perché era più bello, insomma, era più realistico. Invece in Maniac Mansion le porte erano sempre di fronte a te, tutte in Sì. orizzontale. E mi piaceva tantissimo, e quindi l'ho usato in affitto. E oltre a Maniac Mansion, altre avventure grafiche degne di nota nella tua. Beh, io sono un grande appassionato di avventure grafiche, ovviamente soprattutto quelle della LucasArts, e quindi praticamente l'affitto è ispirato a tutte le avventure grafiche della LucasArts. E credo solo quelle perché c'è poco della Sierra in l'affitto. Forse il menu in alto può essere. Non so. Allora, l'inventario è quello di Sam e Max, Hit the Road. Sì, esatto, l'inventario è anche il cursore alla Sam & Max, il cursore pseudo-intelligente che fa fare solo quelle tre azioni. Ah, sì. Forse Il come primo che ho cambia. visto. Il cursore è quello di stile Sierra, perché cambiando clic cambia l'immagine anche, sì. Sì, e Quello. infatti credo, siccome non, i giochi della Sierra li ho giocati tutti dopo le avventure della LucasArts, quindi non so chi è venuto prima e chi è venuto dopo. Penso che se mi dici così, allora forse la Sierra è stata il primo a fare quel tipo di Quella lì del cursore. cursore che cambia, la Sierra, perché la Lucas in quel periodo usava lo SCUM per fare quelle Usava cose. ancora lo SCUM, in Sì, effetti, sì. sì. Allora è così. Io per la prima volta ho visto insieme Max proprio personalmente, per esperienza personale. Quindi, per conto mio, qua l'ho ispirata insieme Max. Sì, lo scatolone subito fa pensare a Sam & Max. Poi il criceto, vabbè. Ho avuto paura per quel povero criceto. Quindi Invece per... sei ispirato a una storia vera, l'affitto, non dirmi che Lindo esiste veramente. No, non è Ecco. ispirato a una storia vera, ovviamente. Insomma, ho preso un po' di esperienze personali, nomi, situazioni non tante in realtà. Più che altro nomi e personalità le ho mischiate perché, cioè, ho mischiato un po' di situazioni, un po' di personalità. No, mi sto confondendo, scusami. Dicevo, ho mischiato un po' di nomi e personalità. I personaggi, delle situazioni che più o meno alla fine sono abbastanza domestiche, a parte Vabbè, Lindo, sono abbastanza domestiche, quindi insomma è uscito così, un po' un miscuglio di esperienze. invece parlando di progetti futuri, ci sarà l'acclamatissimo seguito dell'affitto che ho visto già richiedere in giro. Guarda, l'ho visto anche io richiedere in giro, ma da pochi giorni a questa parte, quindi ci sto pensando in questi giorni. Purtroppo, ribadendo il mio vizio di lasciare in community i progetti, posso promettere che inizierò a farlo, ma non posso promettere che riuscirò a finirlo. Ci vediamo tra 7 anni, insomma. Più o meno, sì, se non cambiano la versione di AGF. Ah, non lo so, la 3.2 è uscita l'anno scorso, quindi no, 2 anni fa, quindi Io dai. spero che, siccome è un ottimo motore per le avventure grafiche e per tutti gli appassionati di avventure grafiche, io sono fissato con l'interfaccia utente, quella di AGS non mi piace. Spero che la rifacciano completamente sia il motore sia l'interfaccia grafica per fare delle avventure grafiche davvero, davvero interessanti. Perché al momento per sviluppare delle avventure grafiche buone usando AGS, bisogna metterci un bel po' di creatività e di impegno. A meno che non la si vuole sviluppare da zero, quello è un altro discorso. Quello lì. Se vuoi proprio fare qualcosa di grandioso, devi sapere dove mettere le mani, devi sapere un po' di Esatto. codice. Esatto. E devi sviluppare un nuovo scanner. Sì, abbastanza. Ah, sì. Aspetta, mi sono perso un attimo. Ah, ecco, una cosa prima dell'affitto che non mi sono fatto chiederti, che ho letto e l'ho letta, però già mentre giocavo al gioco avevo il dubbio. La colonna sonora l'hai composta te, Sì, ci ho tenuto tanto a comporla io perché nei precedenti giochi pubblicati che sono G-Ball e King Pong, sì. King Pong ho utilizzato una colonna sonora composta da un'altra persona, ovviamente con tutti i permessi, però sì. Come l'ho fatto perché avevo fretta di pubblicarlo, mi è dispiaciuto perché ci tengo a fare le cose per conto mio. Infatti per G-Ball ne avevo composta una io, però sempre per la fretta ne avevo composta una brevissima, che quindi si ripete e dà molto fastidio. E per l'affitto ho voluto fare una cosa seria e proprio ispirato dalle avventure grafiche da LucasArts, quelle degli anni 80, quindi con la musichetta che usciva dallo speaker del computer, che era Sì. una cosa bellissima. Io ancora adesso, quando gioco a Monkey Island con Scam VM, non uso la musica della sound ad lib con i driver e delle schede audio, ma faccio l'emulatore per lo speaker, che è bellissimo. E quindi ho voluto simulare quel tipo di musichetta 8-bit e mi sono avvicinato al mondo dei chiptunes, e quindi della Chiptunes. composizione chiptunes, e niente, ho composto questa musichetta 8-bit, che poi mi è stato rimproverato essere molto monotona e ripetitiva. In Ma effetti dai. così è. È così, in effetti Ma avrei secondo me dovuto farla no, un po' più ci sta. lunga. Perché Però non... nei giochi per un'ora ti dà un po' fastidio, dai. Ma non è troppo invasiva e poi... Non è, il tema non è che ricomincia subito, continuamente, troppo 10 secondi all'infinito. È un po'. È, dai, ci sta, ci sta. Secondo me non è così esagerato. Guarda, ti dico la verità, avrei voluto fare una musichetta per ogni stanza, ma era troppo oneroso, quindi ho lasciato perdere. Ho cercato di fare una musichetta per l'intro, una musichetta per il videogioco, e poi un'altra che non sto qui a dire, altrimenti potrei spoilerare a qualcuno che non ha ancora giocato. Sì, infatti anch'io mi sto risparmiando cercando di non dire cose troppo. E anche quella in realtà, naturalmente non sono io l'autore, ma è stata riarrangiata da me lo stesso, ho voluto rifarla comunque. Anche volevo chiedertelo senza entrare nello spoiler, esatto. L'altra canzone che c'è, esatto. Ok. Per l'affitto, direi. E quindi adesso, oltre all'affitto 2, hai altri progetti futuri? Ad esempio, lavori in flash sempre sponsorizzati? Oppure cambiare tool? Non so cosa. Allora, sì, ho tantissimi progetti in realtà. In Flash sicuramente vorrei fare qualcosa, più che altro per... Non so, mi sono sempre piaciuti i giochi in Flash, quindi sempre ho qualche progetto di qualche gioco in Flash che vorrei portare a compimento. Soprattutto vorrei fare un gioco in Flash multiplayer. E mi piacerebbe molto, sto cercando di vedere il modo di farlo e il tempo. Poi vorrei fare un'altra avventura grafica con la GS, un'avventura noir, insomma a tema noir, sai. Sì. Però la mia grande aspirazione, il progetto su cui sto lavorando in modo un po' più convinto, è quella di iniziare a utilizzare dei tool più professionali e di fare un videogioco in 3D, in particolare un survival horror in terza persona. E No, beh, cercare no. di Hai detto terza persona. Ah, ecco, hai attirato la mia attenzione adesso, perché a me la sì. prima horror e prima persona non è che mi piacciono tanto. Horror e terza persona mi vengono in mente i bei tempi giocando a Silent Hill e a Resident Evil. Guarda, io ti faccio un'altra chicca in terza persona che mi ha Hunting appassionato tantissimo, che è Nightmare Creatures, che pochissimi conoscono e ancora adesso non riesco a ritrovare, trovo solo delle immagini. Ground. Di che console Era per PC, io ce l'avevo per PC. era? Vediamo, vediamo. C'è anche per PS1. Non lo so, non so proprio perché è stato. Cioè, io quando ci giocavo avevo 13 anni, ci giocavo sul mio computer che aveva Windows 3.11. Allora, l'1 l'ho trovato. Il 2 c'è per PlayStation 1. L'1 è per PC, da quello che vedo qui. L'uno. E c'è una tipa che prende a pugni dei mostri molto, molto Esatto, arzigogoli. io a quel videogioco ero piccolissimo, cioè, avevo insomma quei 12-13 anni, non riuscivo a giocare per più di un quarto d'ora perché mi spaventavo e dovevo chiudere. Bene, mi hai dato un passatempo per i prossimi pomeriggi, visto che la mia Guarda, PlayStation non 1. so quanto sia valido, però sai, sono ricordi quando sei piccolo e La mia quindi mi PlayStation 1 è divertivo. ancora funzionante. Insomma, sto cercando di utilizzare dei tool un po' più seri come Unity, che è uscito adesso e sta andando molto forte, e quindi sto cercando anche di passare ad altri supporti come i telefonini iPad. Quello lì è per introdursi nel commerciale è proprio la via più. Sì. Insomma, da qualche parte devo iniziare se voglio Ah, davvero sì. fare i miei. Alla fine le alternative sono Kickstarter se vuoi iniziare col PC oppure ti butti sulle app. Io prendo il PC sempre e comunque. Infatti, non sono neanche un grande amante delle console, figurati. Quindi ho sempre preferito il PC, però bisogna pure pensare un po' alla praticità. Quindi per adesso gli smartphone vanno alla grande e vale la pena anche per una questione di esperienza personale. Cioè, Sì, è sempre vale comunque. la pena buttarsi sui mercati. Poi Poi non si sa mai, eh. sì, infatti, poi chissà Come che chi fa. avrebbe detto che Angry Bird sarebbe diventato una cosa così, come dire, assurda? Nessuno, suppongo. Per dirne uno, Plant vs. Zombie, cioè. Sì, infatti. In quel mercato lì Bisogna ci sono. provarci, avere l'idea. Esatto, le idee, basta avere l'idea e se funziona, sei co dai, come Sei a nominato, cavallo. sei a posto. Cacchio, ma sto Nightmare Creatures è cattivissimo. Sto guardando le immagini qui, cioè, tutti che picchiano mostri a mani nude. Sì, a me, io mi ricordo che c'erano dei mostri bellissimi. C'è anche per Dreamcast il 2. Sì, i mostri. Vedo, ci sono molti modelli per i mostri. Sì, tantissimi. Avevo un'immagine dove c'erano tutti i mostri messi insieme, tipo fotofamiglia, no? Che Sì. io ovviamente nel gioco non avevo mai incontrato perché non riuscivo ad andare oltre il terzo livello per la paura. Vediamo. Vediamo se trovo. No, no, ho trovato un'immagine, ci sono i due protagonisti e i mostri sono tutti attorno a loro, però la foto di famiglia non l'ho trovata. Ovviamente si sta parlando di tanti, tanti anni fa. C'è un'immagine che sembra Silent Hill, adesso te la link, trovo. C'è un samurai che sta menando i mostri in una città innevata con la nebbia e in mano ha tipo, non saprei come chiamare quest'arma. Bastone Non fer. so neanche io, non ci sono mai arrivato. Doppio bastone ferrato borchiato. Io mi ricordo il cimitero all'inizio, insomma. Ho ricordi un po' confusi, ma ricordo benissimo il cimitero all'inizio. Ma comunque parlando di horror, adesso l'horror va che è una cosa assurda. Ad esempio, adesso va di moda lo Slenderman, quella me leggenda metropolitana Sì, lì. E ma sai che non mi piace tanto. stanno facendo una cinquantina di giochi su sto Slenderman, che poi se tu. Magari sta gente non sa neanche la storia dello Slenderman. Oh, io mi sono andato a informare proprio perché non riuscivo a capire cos'era lo Slenderman. Mi sono andato a Iker. informare, conosco la storia, ma comunque il videogioco non mi attira. Per niente, non so perché. Ne stanno facendo una versione un po' più caruccia. Forse la proverò, questa, la nuova versione. È che è una moda, cioè alla fine hanno gonfiato qualcosa che poi non è così tanto bello. Semplicemente hanno trovato una leggenda metropolitana un po' più carina delle altre e ci hanno fatto tutto sto bordello. Fuoco. No. Che poi in realtà lui Vedremo quanto rapirebbe i durerà. No, bambini, ma nei giochi boh, non rapisce i bambini. nel gioco vai avanti, ogni tanto te lo trovi davanti e dovrebbe far paura. Sì, in Cioè, realtà almeno lui sta. rapisce i bambini. Vabbè. Io non ci ho giocato, ma ho visto i video dei walkthrough su YouTube, dove c'è ovviamente il bastardissimo tipo che fa giocare la ragazza da sola e Per farsi sorride quando si blu-blu-con. spaventa. No, io ho visto i walkthrough di Rule of Rose, dove il tipo faceva giocare la sua ragazza uno dei pezzi più difficili del gioco. Ecco, guarda, mi hai fatto ricordare uno dei videogiochi a cui dovevo giocare. Rule of Rose. Sì, tanto tempo che ci volevo giocare, non ci ho mai provato. Non è Grazie, brutto. grazie. Non è brutto, però l'inizio è una palla della Madonna. Vabbè, volevo provarlo, lo proverò. Se l'inizio ti rompe, cerca di andare avanti a tutti i costi perché la storia vale la pena di approfondire. Lo farò. E ti dicevo, c'era nella parte più difficile del gioco, lui faceva giocare la sua ragazza, e infatti in quella parte dei walkthrough lei muore continuamente. Va bene, ok. Quindi pensi di provare anche l'horror, che comunque l'horror Sì, sono sempre stato appassionato dei survival horror. però quelli. Possibilmente senza zombie, in realtà, anche se il mio primo survival horror è stato Resident Evil 2. Però preferisco gli horror quelli un po' più psicologici, con i fantasmi, sai, queste cose così. Tipo cosa, come si chiama? Forbidden Siren. Esatto, ma Quello delle foto si chiama Fatal Frame, in Italia si chiama, non mi ricordo. non conosco. No, ma dicevo anche Silent Hill, che è vero che non ci sono fantasmi, non ci sono neanche zombie, è più Ah. una cosa strana, una cosa. Queste cose così. È già il secondo episodio di Ask the Maker che mi fanno parlare di Silent Hill, ma No, no, no, ok. lungi da Allora, me. un giorno facciamo un cineforum, un forum così. Un podcast forum, chiamiamolo. Chiamo te e tutti gli altri e parliamo di Silent Hill per 3 ore ininterrotte. Ok, Perché di Silent Hill ce n'è da parlare per ore, perché è ok. Ma in realtà meraviglioso. io non sono un grande fan, nel senso ho giocato solo i primi due episodi. Ah, hai giocato meglio. Sì, può essere. Ho giocato i No. primi due episodi, il quarto che l'ho chiuso dopo 10 minuti. E ti capisco. No, dai, ci sono rimasto proprio male quando ho giocato ancora. Ma non sono questo grande fan, anche perché ci ho giocato negli ultimi tempi, roba di anni fa. Prima, come dicevo, non sono un grande appassionato, neanche un grande sostenitore delle console, quindi non avevo la PlayStation, non ci giocai ai tempi duro. Ho voluto provarlo negli ultimi tempi e insomma, mi è piaciuto molto. Sì, niente, lo farò prima o poi in Super Aurora. Sì, terza persona, eh. Questa persona e tanti giochi di ombre, la cosa che più mi interessa. E ricordati, una cosa che, vabbè, una cosa così, giusto per dire. L'anno scorso per me è stato l'anno di Survivor Horror, ne ho giocato una valanga, no? La cosa che mi è piaciuta di più sono quelli dove tu sei la ragazza indifesa che per salvarsi il culo deve usare, tipo i vecchi Clock Tower, dove per salvarti dai mostri, ovviamente una ragazza di 16 anni non sa maneggiare un fucile a pompa come ti vogliono vendere nei film, no? Sì. Dove o scappano in crisi isteriche o lanciano qualsiasi cosa trovano. Ecco, quelli secondo me sono i più. Esatto, mi trovi d'accordissimo ed è proprio quello che avevo intenzione di fare, cioè non ci sono pistole, perché tu dovresti trovare una pistola in mezzo alla strada o Sì, e le BB in un carrello energetiche. della spesa per Quello, ritornare a il carrello della Silent Hill? spesa è Silent Hill 2. Vabbè, quello lì c'è, insomma, quella è una genialata. È una cosa No, infatti incredibile. quello lì Non volevo era una assolutamente demenza. denigrare, però per dire, ci trovo sempre armi dappertutto. Poi alla fine arriva la fine del gioco con un bazooka in mano e non sai neanche più come. No, ma poi la cosa No, stupida, bisogna scappare e nascondersi. un conto è se tu sei un soldato addestrato, va bene, allora magari te la cavi, ma se tu sei uno a caso che il giorno prima faceva il geometra, non è che il giorno dopo maneggi un fucile come un berretto verde. Sì, è vero. No, che poi è più ti interessa di più un tipo che non sa come maneggiare un'arma, no? Quindi Sì, è sì. sempre più bello e più pauroso soprattutto scappare e nascondersi, cercare di non farsi prendere con questi mostri alle spalle. Certo, Bello. piuttosto che girargli attorno e riempirli di piombo finché non cadono, tipo Devil May Cry, no? Esatto. Gioco privo di sostanza completamente. Molto più, cerco di spiegarlo a tutti i miei amici, ma ci sono dei fan accanitissimi. Ah, è una tamarrata. Però il primo Devil May Cry, la cosa interessante, è che doveva essere Resident Evil 4. Cioè, hanno fatto un giro Ok, stranissimo. capito. E infatti le location sono belle, perché doveva essere Resident Evil 4, il primo Resident Evil con i fantasmi era il 4. Allora, Resident Evil con i fantasmi lo giocherei molto molto volentieri. Poi, boh, non so cosa è successo alla Capcom, hanno deciso di mandare Leon in Spagna a ammazzare i Granados. E lì ci hanno mandato Dante a fare quelle cacchiate che fa, a battere i soliti tre boss per tutto il gioco. Guarda, quando i giochi si spostano in Spagna o in Sud America, è la fine. Ecco, Resident Evil l'ha fatto tutte e due. Prendi No, il Max Sud America no, Payne. era l'Africa. No, il Sud America ci vanno nello spin-off per i Wii, in Resident Evil Dark Side Chronicle. Ti racconta la storia di Leon. Eh? È una brutta cosa. Ti racconta come Leon ha conosciuto Krauser, quello che c'è in Resident Evil 4, il militare col Ah, non so, braccio. ho chiuso dopo 10 minuti. Ok, va bene. Comunque è uno spin-off dove loro sono incontrati dove? In Sud America. Bellissimi. Quindi ormai tutte le parti del mondo ci sono state. In Giappone ancora non ci sono stati, dai. Dai, in Giappone ci potremmo pure stare, insomma. Gli manca l'Asia, gli manca. Ma per l'horror giapponese c'è un Inuyasha che ci pensa nell'epoca Sengoku, mi sembra un Inuyasha, no? Vabbè. Non so di cosa stai parlando, non sono Ok. ferrato in queste cose. Vabbè, ma comunque stiamo divagando completamente, come sempre. Siamo Quando qualcuno storici. dice Silent Hill. Ok, basta. Okay. Basta parlare di Silent Hill. Un giorno ne parleremo per 3 ore ininterrotte. E con libertà di fare tutti gli spoiler che vogliamo. Benissimo. Ok, quindi abbiamo i progetti per il futuro. Boh, io non saprei che altro dire. E invece nell'imminente futuro hai già qualcosa in cantiere o sei proprio con le mani in mano come me, No, praticamente? nell'imminente futuro sto cercando di laurearmi, Ecco, perché che è sono più molto, importante. sì, sono molto in ritardo, quindi ho detto basta via giù, anche se, guarda, sto facendo esperimenti, no? Tanto per cambiare, quindi cercherò di usare le conoscenze che acquisirò in questi giorni per poi portare a termine un futuro progetto dopo la laurea. Sì. E AGS lo userai ancora o pensi di Io abbandonarlo? spero di sì, come ti dicevo, speravo di fare un'avventura grafica in stile noir, ma una un po' più studiata, no? Perché l'affitto è stato più per hobby. E anche se poi in realtà l'affitto ha avuto una progettazione dietro, sia per gli enigmi che per la storia, non dico storia, più che altro per il tipo di dialoghi che si sarebbe dovuto tenere. Quindi è stato molto più progettato, molto più pensato di quello che doveva essere all'inizio, però voglio fare una cosa con questa avventura grafica noir, voglio fare una cosa un po' più studiata, un po' più lunga anche. Sì, un po' più Tipo curata graficamente. Tex Murphy. Tipo Sam & Max. Ok. Ah, quindi Sì. sempre comica o noir? Vorrei ho quest'idea da lungo tempo di mischiare l'umorismo, più che altro il cinismo, con elementi seri, Ah. macabri, violenti. Beh, tipo cosa? Tipo Discworld Noir. Sì, diciamo di sì. Ah, quanto è bello Discworld Noir. Ah, l'idea mi piace perché sicuramente c'è, per me personalmente è più apprezzabile che piuttosto che una cosa pomposa. Cioè, se voglio una cosa pomposa e seria, vado a giocare a Police Quest 4, cioè, per dire. Capisco. Però, cioè, Discworld Noir, Grim Fandango, cioè, Un fandango. c'è la serietà, però ci si ride sopra. Il personaggio ci ironizza sulla serietà. Bellissimo, un fandango. L'ho giocato 8.000 volte. Uno dei giochi più Ok. Beh. belli della storia. L'unica avventura grafica da 10 e lode. Sì. Bene. Perfetto, i tuoi progetti per il futuro sono completamente in linea con i miei gusti, quindi ti do l'ok per entrambi. Grazie, grazie. Lasciamo l'indirizzo del tuo blog, se per chi vorrà recuperare comunque i tuoi giochi. Adesso io ho perso la pagina perché dopo sono andato a vedere le immagini di Nightmare Creatures. Te lo sai a memoria, vero? Indirizzo del tuo blog. Sì, è creativityblog.altervista.org. Ok. Mitica altervista. No, Eh sì. Grazie. no, è vero, mitica. Tra l'altro, l'altro giorno l'intervista è impazzita perché hai presente che tu per ampliare lo spazio e la banda sul sito devi pagare. L'altro giorno vado nella pagina a vedere i prezzi, no? E c'era scritto: aumenta il tuo spazio gratis. Boh, clicchiamo. Interessante. E c'era 100 mega, 200, 300, 500. Io ho provato 300, ma solo per provare, perché tanto dicevo adesso mi dirà il prezzo. Invece no, mi fa: il tuo spazio è aumentato di 300. Ah. Grande, Allora non mi ha avvertito. vado a vedere la banda. Ah, proviamo, c'era anche lì un giga di banda. Che potevo mettere 5 giga, tanto che era gratis. Metto un giga, la tua banda è stata aumentata. Ma non Grandissimo. so cosa stesse succedendo quel giorno, ma Ma quindi adesso hai è lo passata spazio una aumentato? settimana e ancora il sito ha a quegli aumenti lì gratis, quindi Ah, grandissimo. avrò beccato il giorno giusto, non lo so. Guarda, io non ci vado mai sulla pagina di Altavista, ma se mi dici così cercherò di frequentarla un po' più spesso. Magari prova a approfittarne se ancora c'hanno quella cosa lì. Non so che. Non c'era scritto promozione niente, c'era scritto aumenta il tuo spazio gratis e basta. Boh. Andrò a vedere. Quindi questo è l'indirizzo se volete provare i giochi di Stefano Caporale. E niente, per questo episodio di Ask the Maker direi che possiamo chiudere qui. Ciao a tutti, allora. Ok. Ciao Stefano, ci sentiamo presto, speriamo. Sì, speriamo. Tanto adesso sei nella mia catena di Sant'Antonio di Game Maker, quindi quando io provo dolore lo proverai anche te e viceversa. Va benissimo. Ma solo per il dolore funziona. Ah, ok, va bene. Ci sono i limiti. Se volevo un ampliamento del servizio dovevo pagare. Ecco. E volevo anche dire una cosa, visto che l'altro giorno mi hanno mandato questo messaggio dicendo: ah, ci sono tanti game maker che vorrebbero essere intervistati qui e qua. Io volevo dire che la mia idea iniziale era di essere contattato io. Io non vorrei andare a cercare la gente, cioè non è che mi dispiace, infatti, fino ad oggi li sono andati a cercare tutti. Infatti il problema non è quello, il problema è che io non dico di no a nessuno sostanzialmente. Se qualcuno vuole essere intervistato, basta che mi contatta, la mia email è dappertutto, nei cessi dei GameStop, cioè ovunque. Quindi chi vuole essere intervistato ha fatto un videogioco, basta che mi contatti e lo faremo sicuramente. Volevo dire questo. E niente, questo episodio lo possiamo chiudere qui. Stefano, ti saluto ancora. Ciao ancora. Beh, Grazie di tutto. niente, è stato un piacere. E anche Vario Punk saluta gli ascoltatori. Buia!